dove assolutamente è prioritario intervenire per riuscire a ottimizzare questi processi di trasporto del bene e quindi ridurre conseguentemente e notevolmente l'impatto ambientale. Ecco, da questo punto di vista, banalmente, l'altro giorno mi trovavo alla stazione centrale, c'erano una bottiglietta di Coca-Cola e un tramezzino, naturalmente di quelli già perfettamente confezionati, rinchiusi in una scatola di plastica spessa un millimetro, venduti insieme a un prezzo tra l'altro inferiore a quello della somma dei due prodotti. Ora uno si domanda, lì non sarebbe opportuno anche regolare in qualche modo un po' più restrittivo? Allora, dobbiamo sempre considerare il tema delle funzioni e questo lo abbiamo detto. C'è poi tutto un altro tema. C'è poi tutto un altro tema. Cosa chiede il consumatore? L'imballaggio nasce dal binomio tra ciò che contiene e le funzioni che deve svolgere. Ad esempio, in stazione centrale, sto pensando, ci sono tante persone in viaggio, quindi preparare una bag già pronta che contenga la bibita e il tramezzino può essere funzionale allo scopo e quindi al consumo in quel luogo specifico. Però anche un nastro intorno avrebbe fatto la stessa funzione, sarebbe stato 50 volte meno. Questo sono le scelte poi delle singole aziende, insomma. Speriamo che scelgano bene, insomma, queste aziende. Ci fermiamo qui, ci diamo appuntamento a lunedì, buon fine settimana a voi tutti.